4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. E ancora una volta buonasera, buon sabato, bentornati. Questo è il programma di motori di Radio 24 che a braccetto con gli esperti, l'archivio, i tester di quattro ruote vi tiene compagnia ogni sabato. Ancora una volta una puntata ricca. Attenzione, abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti argomenti da trattare. Inizieremo con Marco Perucca direttamente da Quattro Ruote, a cui do già subito il buonasera. Ciao Marco. Ciao Roberto e buonasera a tutti i radioascoltatori. Con te Marco proveremo oggi la Hyundai i20, un'auto che vi è piaciuta per molti aspetti, di cui avete evidenziato anche alcune piccole ma importanti lacune, e lo faremo insieme a te. Poi parleremo di Formula 1, c'è in attuale svolgimento il Gran Premio di Shanghai in Cina con Carlo Cavicchi, il vice direttore. Poi parleremo di un collaterale del Sole 24 Ore scritto da Enzo Rizzo, un collega che ci parlerà di questo splendido libro anche fotografico. A proposito di libri, parleremo dell'eterna sfida fra Honda e Toyota, una battaglia per il primato, si chiama l'auto con Mattia Bonato, che è l'editor della casa editrice italiana di riferimento, e ritorneremo sulle auto. Con gli incidenti a Milano, la Fondazione 3M ha fatto un'inchiesta importante, Marco Mauri di Decra chiude il discorso sulle tuning, e finiremo con l'avvocato Lievore, che tutte le settimane risponde alle mail giunte a questo indirizzo: 4ruote@radio24.it. Marco Perucca, te la parola. Che tipo di auto è la Hyundai i20? Beh, è una valida alternativa nel segmento B alle più classiche auto di quel tipo, quindi alla Punto, alla Fiesta, che è l'ultima arrivata e anche la più gettonata in quest'ultimo periodo. È un po' più corta della Punto, 10 cm meno circa, ha una bella linea, piacevole, abbastanza diversa, quindi accattivante. La linea è sempre un fattore di vendita molto importante, molto. Gente vuole la macchina bella e ha un buon rapporto qualità-prezzo. Bene, tanto per come riferimento parte da qualcosa meno di 13.000 euro e diceva è lunga 3,94 m, questo per dare i riferimenti di quello che hai detto. Lo sentiremo però adesso nella scheda che vi abbiamo preparato. Senza mostrare timori reverenziali nei confronti delle più blasonate rivali, che da anni si contendono il primato nella categoria, la nuova i20 irrompe nel segmento delle utilitarie. Linea piacevole, comportamento affidabile, consumi contenuti. Ecco gli ingredienti che l'orientale Hyundai mette in campo per affrontare la sfida. E a parte qualche appunto sulle finiture, offre anche un ricco equipaggiamento di serie. Il tutto a un prezzo concorrenziale. Nome: Hyundai i20 Comfort. Carrozzeria: berlina 2 volumi, 5 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 3,94 m, larghezza 1,71 m. Motore: anteriore trasversale, 4 cilindri a benzina. Potenza: 78 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce. Prezzo: 12.851 euro. Ecco, partiamo proprio dal suo motore, Marco. Certo, non è un'auto sportiva, non ci interessano tanto le prestazioni, però sicuramente quel come si guida, quel come va in città e fuori è importante per un'auto così. Sì, certo, è un 4 cilindri, un onesto 4 cilindri, da 78 cavalli di potenza, che con la massa sulla massa della Hyundai fanno comunque la loro bella figura. Non c'è da aspettarsi uno scatto bruciante, però si va da 0 a 100 in 12,8 secondi e anche con le marce più lunghe, insomma, si riprende con un minimo di brio, insomma, quanto basta, quanto è sufficiente per muoversi con disinvoltura nel traffico di tutti i giorni. Nella pagella che sentiremo tra poco c'è scritto che le finiture invece sono un po' inferiori allo standard qualitativo medio. Vogliamo spiegarlo prima di sentire poi la votazione che avete dato, Marco? Sì, diciamo che l'abitacolo è ben disegnato, i sedili sono di buona fattura, quello che delude un po' sono i materiali plastici, soprattutto i rivestimenti delle porte, quelli posteriori, la parte sotto della plancia, e quindi diciamo rispetto alle ultime uscite in questo settore siamo a un livello leggermente più basso. Per quanto riguarda invece consumi e allestimenti di serie, per esempio l'ESP, mi sembra che qui ci siamo. Sì, ecco, sicuramente uno dei punti di forza di questa macchina è l'equipaggiamento, che nella versione Comfort che abbiamo provato noi, che costa poco più di 12.000 euro, comprende 6 airbag e l'ESP, cioè il controllo elettronico della stabilità. E per noi questo è un punto assolutamente a favore della vettura. Poi ci sono anche le solite cose che ormai diamo per scontate, ma che scontate non sono, tipo il climatizzatore, quattro razzi cristalli elettrici, insomma, e così via. Molto bene, allora sentiamo i voti che abbiamo dato nella pagella preparata da Quattro Ruote a questa Hyundai i20. Posto guida. Ci si trova subito bene grazie alla doppia regolazione del volante e all'escursione del sedile. L'impostazione è turistica. Il sedile, con imbottitura abbastanza rigida, si è rivelato piuttosto comodo, 4 stelle e mezzo. Finiture, inferiore allo standard qualitativo medio. Ci aspettavamo qualcosa di più, dobbiamo dirlo, da questa i20. Sono soprattutto i materiali plastici a deludere, per esempio i pannelli porta e la console. Più curata la selleria. 3 stelle. Comfort. Di livello leggermente inferiore alla media, colpa del 4 cilindri che si fa sentire più del dovuto e soprattutto colpa delle sospensioni che tendono a irrigidirsi un po' troppo sulle sconnessioni della strada. Migliorabile, 3 stelle. Su strada, il progresso rispetto al modello precedente, la Getz, è sensibile. La i20 è facile e prevedibile, con buoni livelli di tenuta e stabilità, sia sull'asciutto sia sul bagnato, grazie anche al buon funzionamento dell'ESP, 4 stelle. Consumi. Piuttosto contenuti, se si ha l'accortezza di non sfruttare mai a fondo il motore. In città si fanno anche 12-13 km con un litro e quasi 15 sulle statali. Buona l'autonomia, garantita dal serbatoio da 45 litri. 4 stelle. Marco Perucca, se qualcuno ti chiedesse un consiglio su questo, come giornalista ovviamente di motori, su questo range di prezzo, diciamo sopra i 10 ma sotto i 15 abbondantemente, consiglieresti la Hyundai i20? Ma io direi di sì, nel senso che il prodotto c'è, la macchina è ben realizzata, va bene, è sicura, sicuramente in questo allestimento comfort che è l'SP di serie, per noi appunto è una condizione irrinunciabile, e quindi direi di sì, perché insomma è una macchina piacevole, un po' diversa dalle altre, quindi un'alternativa alle solite, però una valida alternativa, insomma si rinuncia a qualcosa in termini di comfort sicuramente e anche di finitura, però il posto guida è ben impostato e quindi d'altra parte si vive al volante e questa è una cosa molto importante, consuma poco, il motore se non si pretende troppo va bene, è su più che sufficiente e quindi il prezzo è concorrenziale. Sì, sono quelle auto diciamo degnamente intelligenti che servono soprattutto per gli spostamenti, qualcheduno le carica anche un pochino, però oggi con un ESP, pensate, di serie sotto i 13.000 euro si può stare anche tranquilli in condizioni di emergenza. Ultima riflessione, allarghiamo un pochino Marco e poi ci salutiamo. Avrete notato tutti, Marco per primo lo ha fatto notare insieme ai suoi colleghi dal mensile, anche le piccole, anche le medie stanno diventando sempre più belle, no? Prendo sempre ad esempio ultimamente la Ford Ka, che mi ha stupito a livello di design, non che la prima non lo fosse, ma era così provocatoria da essere forse in anticipo. Molte piccole, molte auto come la Opel Insignia, voi avete detto non ci aveva mai abituato a essere così bella, la Kia Soul, insomma auto che di solito, case che ci avevano abituato a non essere belle dal punto di vista del design estetico, oggi riescono anche ad essere apprezzate in quello. Sarà sempre di più un fattore competitivo questo, Marco? Ma diciamo che il vestito, cioè la linea, il design è sempre stata una delle ragioni principali per cui si acquista un'automobile, cioè l'automobile deve essere bella, deve piacere. Poi bisogna, ovviamente si inseguono un po' i gusti della gente, evidentemente in questo momento la gente vuole cambiare, si è un po' stufata dei soliti modelli, delle solite linee ed è adesso ormai pronta ad apprezzare e a valutare positivamente anche auto che escono un po' dai soliti schemi e propongono idee nuove, innovative. Basta tornare indietro un po' di qualche anno per ricordarsi la Multipla, certo. ancora in listino, anche se ormai è ristilizzata, e forse quegli anni non erano maturi per un'auto di quel genere, che era invece molto molto razionale, molto intelligente. Molto bene, molto bene. Grazie davvero ancora una volta Marco Perucca. Grazie Marco, a prestissimo e buona serata. Di nuovo buona serata a tutti. Quattro ruote e dintorni. Allora, dopo la prova della Hyundai i20 con Marco Perucca, passiamo adesso la parola al vice direttore di Quattro Ruote, Carlo Cavicchi, da poco in realtà in casa Quattro Ruote, la prima volta che si affaccia con queste vesti al nostro microfono. Dunque, caro Carlo, intanto complimenti e buona serata, benvenuto. Buona serata a tutti. In realtà i nostri ascoltatori più attenti ti ricordano anni fa, quando eri in altri, presso altri editori. Tu sei sempre stato attivo sia nel mondo dell'auto che dello sport. Con te vogliamo parlare un po' di quello che sta accadendo in Formula 1. Abbiamo tutti visto quanto è successo durante il primo Gran Premio. Si divide un po' la critica, se sei d'accordo. Qualcheduno che dice evviva, aria di novità ci voleva. Qualcheduno che borbotta dicendo com'è possibile che Red Bull, Toyota, BMW e queste Brown GP siano ai vertici e che tutte le altre siano dietro. Intanto, che cosa ne pensi tu? Beh, un po' di aria nuova ci voleva, anche le discussioni, questo parlare fanno solo bene, e il grande burattinaio di tutto, Bernie Ecclestone, è sempre stato un maestro nel far sì che della Formula 1 se ne parli, non importa come, basta che se ne parli. E questo è un suo vecchio concetto. Poi trovo anche eccitante, in fondo in tante altre categorie fanno sì che nella seconda gara i primi partano ottavi, i secondi partano settimi, proprio per dare vivacità. Era una vecchia proposta di far partire i migliori ultimi per vedere i sorpassi o vedere situazioni. Oggi la Formula 1 si è trovata di fronte a un cambio regolamentare, e sempre quando ci sono i cambi regolamentari capitano anche delle rivoluzioni. In questo senso sono in atto, ma non è detto che sono così oggi, ma di qui a 2 mesi le cose potrebbero cambiare radicalmente. È chiaro, questo è anche il bello e il fascino della Formula 1, che è giunta durante questo weekend. Domani si corre a Shanghai, in Cina, ricordo tra l'altro alle ore 9, non alle ore 8, alle ore 9 italiane, domattina, sia su Rai 1 che su Sky ci sono ovviamente le dirette, poi gli speciali di Grand Prix naturalmente su Italia 1. Allora io ti chiedo intanto una riflessione sul fatto che la Ferrari corre senza KERS, questo sistema, se vuoi anche recuperare una breve definizione per coloro che sono un po' distratti in campo di Formula 1, e poi su quanto avvenuto recentemente, sono stati resi leciti da una sentenza della FIA e della FOTA le grandi innovazioni aerodinamiche che alcune squadre hanno, per esempio Brown GP, e altre non hanno, dando loro, sembra, un vantaggio in curva così evidente, Carlo. Beh certo, allora vediamo, i diffusori che è stato in discussione se regolari o meno, e che adesso sono stati giudicati regolari, cioè rispettosi del regolamento nuovo, danno un chiaro vantaggio a chi ha pensato la macchina così. È stato comunque astuto che ci è arrivato. Tutti adesso si parla di Brown che era alla Ferrari, Ross Brown che l'ha vista, che è sempre uno molto avanti, però non è stato solo lui, la Toyota e la Williams stesse erano arrivate ancora prima a girare già da febbraio con queste soluzioni al posteriore aerodinamiche, che danno sicuramente un vantaggio. Ripeto, il vantaggio è oggi, perché non sempre le macchine che sono andate bene in stagione con delle soluzioni aerodinamiche anche in passato poi l'hanno tenuto, perché gli altri magari una soluzione che attualmente è differente ma sviluppata poi bene potrebbe anche andare meglio. E d'altronde la Red Bull, che senza questo diffusore contestato, gira sempre in tempi molto vicini. E anche senza il KERS, è l'unica che non ha nulla e va molto forte, certo. Il KERS è una soluzione, è un'opportunità che è stata data quest'anno per cercare di far sì che la Formula 1, oltre che essere spettacolo, desse un contributo tecnico e al passo con i tempi, cioè verso il recupero di energia. Le macchine in frenata recuperano dell'energia, l'energia da, come vagamente vorrebbero ricordare, il funzionamento di una macchina ibrida, danno comunque una potenza in più che viene accumulata prima e poi trasmessa durante un giro per una durata massima di 6 secondi, uno può avere fino a 80 cavalli in più. Le case con meno soldi ce ne sono ben guardate dall'usarlo, perché è molto complicato. Per ora l'hanno usato soltanto la Renault, la McLaren, la Ferrari e a turno su una vettura la BMW. Certo, ed è ancora da confermare insomma la sua validità fino in fondo, anche su questo i piloti si dividono abbastanza. Carlo, vedremo domattina, diamo l'appuntamento a tutti ore 9 davanti alla televisione, se vorrai poi lo commenteremo di settimana in settimana come una sorta di introduzione a ogni weekend, sei ospite gradito. Grazie Carlo Cavicchi, vice direttore di Quattro Ruote, a presto. Grazie a tutti. Passiamo adesso ad un altro argomento che riguarda noi del Sole 24 Ore, perché c'è un'opera in uscita. Da lunedì vorrei una volta tanto sottolinearla io invece di qualche collega, perché riguarda evviva i motori, le auto. Si chiama Auto Leggendarie, è un'opera tra l'altro pensata in 6 volumi, quindi un bello sforzo anche editoriale in collaborazione fra il Sole 24 Ore e le edizioni White Star, che sono degli editori molto in gamba soprattutto su tutto ciò che ha un impianto fotografico di buon livello. Al telefono abbiamo l'autore in realtà di questo di parte di quest'opera, Enzo Rizzo, che poi è anche un amico, giornalista, caporedattore di Monsieur. Caro Enzo, intanto buona serata e benvenuto. Ciao Roberto, a te e ai radioascoltatori. Dunque Enzo, ci racconti intanto un po' tutta l'opera, ma relativamente a quelle italiane, le auto leggendarie di cui ti sei occupato tu. Esce da lunedì in edicola al prezzo di 12,90 euro, oltre il quotidiano, oltre il Sole 24 Ore, poi ricordo dopo le 6 uscite che permetteranno di concludere questa meravigliosa opera, Enzo. Sì, certo, la collana consta di 6 volumi, questi 6 volumi appunto, 2 dei quali sono dedicati alle auto italiane che ho scritto io, 2 a quelle tedesche che le ha scritte il collega Peter Ruch, svizzero, e altri 2 su una miscellanea sulle auto leggendarie in generale di un altro collega di Auto Week che è Larry Edsall. Per quanto riguarda noi, l'opera italiana, al pari delle altre, fa compagna per 150 anni, che è un po' l'arco temporale in cui si snoda la storia dell'automobile. Sì. Ed è una storia certo di automobili, l'automobile è al primo posto, però è anche bello, al di là delle automobili, vedere che cosa c'è dietro, gli uomini che l'hanno portata a diventare tale, perché e questo grazie anche appunto alla White Star, che comunque è una casa editrice che pubblica in Italia e nel mondo, che ha sempre fatto un po' opere di pregio e quindi riesce con questa grande attenzione alla fotografia, con questa grande attenzione alla grafica, veramente a far venire fuori le emozioni dei libri. Poi sui contenuti saranno i lettori a giudicare. A giudicare la tua opera e quella dell'editore. Senti Enzo, ci racconti 2 auto, se tu dovessi, so che è difficile estrapolare da tutto questo, da tutta questa leggenda italiana, 2 auto, 1, 2, 3 auto, quali citeresti? Ma guarda, la prima auto che mi viene in mente è, vabbè, uno potrebbe pensare a Ferrari e va bene, però la prima che mi viene in mente forse è la Lancia Lambda, perché? Per sì. 2 cose. Questa macchina è stata veramente rivoluzionaria, ci sono state delle auto italiane che hanno fatto veramente la rivoluzione dell'automobile, questa auto è stata la prima con carrozzeria portante e struttura portante a ruote indipendenti, cioè stiamo parlando del 1922, quindi di oltre 80 anni fa, ed era assolutamente una novità dal punto di vista mondiale. Quest'auto mi porta anche a pensare a chi l'ha creata, che era Vincenzo Lancia, che era questo personaggio veramente geniale. Forse non se ne è parlato abbastanza. Potrei citare un paio di aneddoti molto brevi su Vincenzo Lancia. Innanzitutto, pensando a lui, ringrazierei la sua caparbietà, perché il papà lo voleva avvocato, lui invece era appassionato di motori, fa briga ad ISFA, diventa collaudatore in Fiat, poi con un suo collega mette su questa officina. Fantastico. Si mettono a lavorare giorno, notte, mettono in piedi questa macchina, viene distrutta da un incendio, la ricostruiscono, ecco che viene fuori questa Alfa Romeo, la chiamavano Alfa in onore all'alfabeto greco che poi ha contraddistinto tutte le autolance. Viene fuori questa Alfa 24 e quando sono lì pronti per andare a collaudare, perché allora non è che c'erano i collaudatori, erano stesso loro che andavano a collaudarla, si rende conto che non esce più dall'officina di Torino. Allora cosa fanno? Rompono col piccone il muro ed escono. Ecco, questo ti dà proprio l'idea della passione che c'era dietro. E ricito ancora Lancia perché mi viene in mente personaggi, beh, D'Annunzio era un grande estimatore di Lancia, certo, anche certo. Lo stesso Puccini addirittura commissionò a Vincenzo Lancia la costruzione di un'auto che potesse muoversi su terreni difficili, allora lui gli realizzò una macchina a ruote artigliate, ecco che siamo di fronte, così potremmo definirla la prima fuoristrada italiana. Fantastico, questo anche per far capire come davvero la storia dell'auto sia stata fatta in epoche non sospette da, tu hai citato la parola passione, no? Da emozione, da aneddoti davvero che danno il come posso dire, il risultato finale di un'equipe vera che lavora in prima battuta, prima ancora che industrialmente, umanamente. Questo è bellissimo, poi l'industria automobilistica per forza si è sviluppata, qualcuno dice di diventata un pochino più fredda, un pochino più cinica, però devo dire, se uno sa cercare e vedere bene, le emozioni ci sono, e come ancora oggi. Chiudiamo con un altro aneddoto, se ce l'hai, Enzo, di questa bella opera, Auto leggendarie italiane. Ricordo le 6 uscite: la prima è lunedì 20 aprile, la seconda il 27, con queste le Auto leggendarie italiane si concludono. Poi c'è il 4 e 11 maggio, 2 uscite, sempre con il Sole 24 Ore, tedesche, e poi dal 18 al 25 maggio, il 18 e il 25, sono le auto che hanno fatto la storia dalle origini al XXI secolo. Chiudiamo con Enzo Rizzo, l'autore dei primi due volumi. Sì, un brevissimo aneddoto, anche una breve considerazione finale. Un altro aneddoto mi viene in mente, la Ferrari 250 California, che è un'icona del Made in Italy nel mondo. Basti pensare soltanto che hanno venduto a maggio dell'anno scorso all'asta una 250 California nera, che apparteneva all'attore James Coburn, e praticamente questa è la macchina che è stata battuta all'asta per 7 milioni di euro, ed mamma è la macchina mia, attualmente, che ha raggiunto cifre, il prezzo più alto mai pagato per una Ferrari. Si può dire un'opera d'arte. Un'opera d'arte. Considerazione finale, fai conto che la storia delle automobili italiane, queste auto leggendarie italiane, rispetto a quelle di tutte altre del resto del mondo, hanno una caratteristica, che più di altre ci sono delle persone, dei cognomi che oggi sono marchi. Pensiamo a Enzo Ferrari, ma pensiamo anche a Vincenzo Lancia, Ferruccio Lamborghini, Nicola Romeo, Alfieri Maserati. Per non parlare dei carrozzieri, quante persone? Zagato, Pininfarina, Bertone, cioè Giugiaro. Giugiaro, vero, vero, verissimo. Una bella riflessione questa, che contraddistingue anche questa industria rispetto a tante altre. Pensate che orgoglio poi per una famiglia. Grazie davvero a uno degli autori di Auto leggendarie, in edicola da lunedì con il Sole 24 Ore, Enzo Rizzo. Grazie Enzo e buona serata. Grazie Roberto, buona serata anche a te e ai tuoi radioascoltatori. Quattro ruote e dintorni. Allora, come è stato anticipato, anche questo sabato ci fa compagnia l'avvocato Erika Lievore dello studio di Milano. Lievore, intanto buonasera. Buonasera a lei, ascoltatori. Avvocato, come sempre arrivano molte notizie, molte domande da parte degli ascoltatori, che scrivono e possono continuare a scrivere a quattro ruote, scritto con il numero 4ruote@radio24.it. Ne scegliamo una in particolare e le sarà dato risposta, non privatamente come a tutti gli altri ascoltatori, ma pubblicamente attraverso i microfoni, qualora la domanda fosse interessante per tutti. E questa in effetti lo è. Dice il nostro amico Giovanni: ho parcheggiato la mia auto su un marciapiede di una strada privata, in una vietta a una sola corsia. Non c'era nessuna segnaletica stradale e c'erano altre auto parcheggiate. Una di queste ostruiva l'uscita a tal punto che qualcuno ha chiamato i vigili, i quali sono arrivati e hanno multato tutte le auto di quella piccola via, compresa la mia. È giusto? Allora le lascio la parola, avvocato. Allora, per capire meglio la legittimità o meno di una contravvenzione di questo tipo, dobbiamo partire facendo una distinzione fondamentale tra strade private ad uso pubblico e strade private ad uso privato. Per la stessa definizione che dà l'articolo 2 del Codice della Strada, l'area di proprietà privata aperta alla circolazione dei veicoli, delle persone e degli animali senza alcuna limitazione da parte del proprietario è comunque soggetta alle disposizioni del Codice della Strada. Quindi troviamo una norma che fa riferimento non tanto al concetto di proprietà, ma al concetto di destinazione, che viene in ogni caso data dal proprietario dell'area. Certo. Quando invece la circolazione in un'area privata è consentita a una categoria particolare di persone, non potremo ovviamente più parlare di uso pubblico, e un esempio di questo troviamo quando per esempio ci sono un parcheggio per i clienti, quando abbiamo uno stabilimento che mette a disposizione il suo piazzale per gli operai. E in ogni caso queste aree private vengono normalmente individuate attraverso dei cartelli o con strutture che limitano l'accesso, quindi con delle transenne, o al perifine dell'area stessa, quindi ad esempio un'area destinata alla distribuzione del carburante. E certo, dentro la quale si entra solo esclusivamente per fare benzina. Ma a che cosa serve questa distinzione fra le strade private, quelle ad uso pubblico e quelle invece private ad uso privato? Allora, ci serve perché è necessario sapere che la polizia stradale può operare in qualsiasi area, anche privata, ma solo destinata alla circolazione pubblica. Su tale area, infatti, è il comune a regolamentare la circolazione, mentre nelle aree interdette alla circolazione indeterminata e indiscriminata di persone, la polizia stradale non potrà intervenire con contravvenzioni, ma eventualmente potrà intervenire nel caso vi fosse necessità di accertamenti. Certo, quindi si può dire che il nostro ascoltatore Giovanni è stato multato correttamente perché sostava, tra l'altro, sul marciapiede con all'interno di un'area che era sì privata, una strada privata, ma ad uso pubblico. Ci ricorda brevemente qual è la sanzione? Allora, la sanzione va da 74 a 296 euro, la decurtazione di 2 punti della patente, perché ci troviamo di fronte a un caso di sosta sul marciapiede, quindi con decurtazione dei punti. Da 74 a 296 euro la somma da pagare. Ai ai ai, Giovanni, hai sbagliato. Questa era la risposta dell'avvocato Lievore, che io ringrazio, a cui do il buona serata. Grazie. Grazie, buonasera ai ascoltatori. Allora, vi ricordo ancora una volta la nostra email per giungere fino all'avvocato Lievore, 4 scritto in numeri, ruote@radio24.it, potete scriverci e sceglieremo una vostra domanda a cui verrà data risposta attraverso questi microfoni. Vi presento invece adesso il segretario generale della Fondazione 3M, il dottor Antonio Pinna Berché. Dottore, buonasera. Buonasera a voi. La sentiamo per un paio di minuti perché avete fatto come Fondazione 3M una indagine molto interessante sull'incidentalità nel milanese, un'indagine anche abbastanza preoccupante. Ce la vuole raccontare? Sì, questo è il secondo anno che presentiamo questa indagine e quindi abbiamo dei dati anche consolidati nel tempo. Si tratta di un'indagine condotta sull'incidentalità, cioè sugli incidenti che hanno comportato morti e feriti nella città di Milano in tutti i casi di incidente, cioè autoveicoli, biciclette, motociclette, pedoni e altri veicoli. Ecco, dottor Pinna Berché, se c'è da dire che a livello nazionale, per fortuna, anche se lentamente, i morti sulle strade diminuiscono di anno in anno, nel milanese non va sempre così, anzi c'è un aumento per esempio del 7,8% del numero dei ciclisti per esempio coinvolti. Sì, la nostra indagine ha comportato alcuni dati molto interessanti. Un dato positivo è quello della incidentalità, che tende a diminuire, quest'anno è diminuita del 6,6% a Milano, però a questa riduzione dell'incidentalità non corrisponde una riduzione purtroppo dei feriti, soprattutto per quanto riguarda le utenze deboli. Per utenze deboli io mi riferisco a pedoni, ciclisti e motociclisti. Le utenze deboli che sono coinvolte in incidenti purtroppo superano il 60% del totale. Questo è un dato estremamente significativo, certo, di cui bisogna tener conto, perché evidentemente la nostra circolazione cittadina è tutta basata e tarata sulla circolazione degli autoveicoli e non sulla rimanente parte del parco circolante, che invece è in aumento in questo momento, perché mentre gli autoveicoli stanno diminuendo, le biciclette e le motociclette sono in aumento. Certo, poi un altro dato molto interessante è che la maggioranza degli incidenti avviene negli incroci. Questo come ve lo spiegate? Questo avviene negli incroci perché negli incroci evidentemente ci sono problemi di visibilità, ci sono problemi di velocità, di mancanza anche di rispetto delle norme, spesso anche dei semafori purtroppo. Disattenzione, incapacità anche, perché d'attenzione, ma un dato molto critico è quello dei pedoni deceduti, oltre il 53% ha più di 65 anni e questo avviene prevalentemente negli incroci. Questo la dice lunga sulla difficoltà delle persone che hanno una certa età, che hanno ovviamente qualche difficoltà di mobilità, di attraversare le strade cittadine senza incorrere in problemi molto severi. È chiaro, questo era per dare atto di una ricerca importante della Fondazione 3M, ha messo davvero in evidenza dei dati preoccupanti. Cercheremo anche il Comune di Milano, mi viene in mente ora, per capire che cosa potremmo fare qui al nord, ma vale poi per tutta Italia. Chi avesse una buona idea può alzare la mano, noi lo ascoltiamo volentieri per diminuire questa terribile incidentalità. Grazie per ora davvero al segretario generale della Fondazione 3M, Antonio Pinna Berché, buona serata. Grazie. a voi, buona serata. Bene, salutato il segretario generale della Fondazione 3M, adesso chiudiamo in bellezza con l'ingegner Marco Mauri, amministratore delegato di Decra Automotive Services. L'abbiamo sentito 2 settimane fa, vi avevamo promesso la chiusura di un cerchio, cioè di un discorso che riguarda il tuning, ossia la personalizzazione della propria auto. Argomento molto caldo, è arrivato alla ribalta 2 o 3 settimane fa in quanto al My Special Car, ve lo ricordate, a Rimini se ne è discusso tanto grazie anche a 2 deputati bipartisan. Ingegnere, buonasera. Buonasera. Lei mi ha inviato, io ho letto con attenzione, vorrei che ora lei descrivesse questa proposta di legge che è una modifica all'articolo 78 del codice della strada. Questa è una proposta di legge che giace in commissione trasporti al Parlamento e volevo intanto che lei riassumesse il senso di questa proposta agli ascoltatori per capire a che cosa può servire, se voi siete ovviamente favorevoli, questa proposta. Allora, premesso che Decra appoggia questo tipo di iniziativa, abbiamo anche richiesto un'audizione in Commissione Trasporti proprio per far presente il contenuto e i vantaggi che per la collettività questa proposta potrebbe portare. Se descriviamo per sommi capi che cosa dice questa proposta di legge, per sommi capi che cosa viene detto? Viene detto che il Ministero dei Trasporti nominerà dei servizi tecnici, sia i propri, i centri prova autoveicoli, che servizi tecnici già accreditati a livello europeo. Questi servizi tecnici non faranno altro che provare i componenti che poi verranno montati sui veicoli e rilasceranno dei certificati di omologazione nazionali italiani oppure equipollenti rilasciati sempre da questi enti stranieri, che possono essere tedeschi, francesi, spagnoli, ecco, che abbiano delle caratteristiche di qualità riconosciuti da una normativa, che c'è una normativa europea che è la 17.025 per i laboratori di prova. Ecco, è un po' questo, no, il punto, cercare di regolamentare un settore, un reparto che a gran voce chiede di essere regolamentato, però tutelando quella che è la qualità dei pezzi che potrebbero sostituire quelli originali della casa costruttrice. Il grosso problema è quando si toglie un pezzo da una macchina, se ne mette un altro, la domanda che ci si è fatti è: ma chi stabilisce che quell'altro pezzo, il secondo in aggiunta, sia sicuro? Ora le chiedo, come potreste voi certificare tutto questo? Allora, attualmente esistono già delle regolamentazioni, fra cui quelle tedesche sono quelle più avanzate, e verranno prese anche a modello per poter scrivere quelle italiane, ad esempio, perché è un esempio consolidato da oltre 20 anni di esperienza. Questi processi, procedimenti di prova testano i componenti sul veicolo o in laboratorio, testandone la sicurezza e l'affidabilità nel tempo. Per cui i componenti che supereranno queste prove o che le hanno già superate, perché esistono dei componenti già omologati, appunto anche per esempio in Germania, che superano queste prove, potranno essere sul mercato e successivamente montate. Ecco, il grosso, diciamo, cambiamento che viene richiesto in questa proposta è che la modifica una volta montata dovrà essere verificata in un centro specifico, e questo centro specifico che diciamo come base è un centro di revisione, ma il centro di revisione dovrà avere un esperto riconosciuto che abbia delle qualità, che vada a verificare che il componente sia stato montato correttamente. Ecco, perché anche questo è un altro aspetto importante, non solo la qualità del pezzo ma anche il corretto montaggio. Ricordiamo che ad oggi in Italia non si può toccare la propria auto, nel senso togliere pezzi, aggiungere spoiler, minigonne, luci blu e gialle, insomma bisogna lasciarla così com'è, dove invece nello stesso settore in altri paesi si possono fare cose e non credo che abbiano mai creato problemi di pericolosità. Molto bene, ingegner Mauri, grazie per la sua consulenza, abbiamo scelto anche lei perché è particolarmente attivo in questo campo, considerato uno dei massimi esperti in materia non solo a livello nazionale. Grazie e a prestissimo. Arrivederci, buona serata. Noi ci fermiamo qui anche questo sabato, torniamo però puntuali sabato prossimo ore 21 su Radio 24 insieme agli amici di Quattro Ruote per tenervi compagnia in base ai motori. Pietro è stato con me in regia, vi ha fatto ascoltare tutte le voci che ritrovate su radio24.it, Roberto Rasia vi ha parlato e vi augura soprattutto una buona guida.